prova radio, prova radio, prova radio. Chi è avanti? Avanti, chi è sul 10? C'è qualcuno? CQ10. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Del mare si trova a rinfrescare le chiappe. Chiappa, a voi normalmente cosa mi rifugio uno, che mi impazzo una cosa del genere. Ah, bravo. Ah, ce lo fare, ce lo fare, vuol dire che hanno l'appuntamento, a Gianfranco deve essere impegnato. Se c'è già uno qua, e dice avanti, avanti, cioè non c'è problema. È un vero monopolio noi, non qui. Vabbè, non mi interessa, dai. E poi Giovanni, sta a posto? Tutto a posto, tutto a posto, a tu. E voi? Anche noi, dai, anche noi. Tutto bene, tutto a posto. Ah, cioè, sempre quell'antenna là, sempre quella che ho visto, sì. E allora, beh, Beh, va bene, per quello che lo uso, va bene anche. No, 9.20 sì, qua. Cos'è sempre con quell'apparecchio che ti ho detto, eh? Ah, sempre lo stesso, che me lo cambiano. È sempre lo stesso, ma gli altri 4, ma solo... Sono a parte, chi li usa quelli lì? Usa sempre questo, va bene. Ecco, va bene, ti arriva la latte dolce. Sei 9.25, quasi 9.28. Con quale sai? Sì, con quello grande? Sempre con quello, Giomari, sempre con quello. Sta andando bene, sta andando bene a tu. Va bene quella Gigio. Sta buia, bella, chiara. Che babbo lo vuole più mettere, se no gli è arrivato un bel forte lì a casa, latte dolce. Gli è arrivato un bel forte voce proprio. Babbo non ne vuoi più intindi, cosa vuoi fare? Dovresti arrivare più forte, ma io ho quel bastone di scopa per quello che arrivi così, capito? Sennò avendo l'antenna magari da 50 anni, il segnale magari aumenta, capito? Però mai va bene al tuo. Ehi, a voi là. Va benissimo. Si attacca qui tu gozzo, a valvole, a voglia che aumenta. Va bene, altro là, ci sentiamo, buon procedimento, ciao. Ciao Giomari, ce la risentiamo, grazie per la chiacchierata, ciao. Gianfranco, attenzione Gianfranco, canale 10. Attenzione Gianfranco, canale 10. Gianfranco, tu sei? Cazzo, non si intervenuta. A baracchia da ne fatto, Gianfra! 1, 2, 3, stella. Attenzione Gianfranco, canale 10. Lì c'è molto, guarda. Attenzione Gianfranco, canale 10. Attenzione Gianfranco. Attenzione 10, brecco. Attenzione canale 10, brecco. Attenzione 10, brecco. Avanti, canale 10. Chi sei? E Antonio sono, buonasera. Poi là Antonio, come va? Bene, bene. Da dove chiami tu? Sono qui in vacanza, sono qui giù sulla Platamona. Arrivi bene, sei Santiago 9, Radio 5. Capa, sei proprio a Platamona, Platamona? Sì, Platamona, Platamona. Senti, non è che sei tu Gianfranco per caso? No, negativo. Non ho sentito per niente. Gianfranco chi? Un amico che è in vacanza con noi, porca miseria, tutto il giorno che cerco di contattarlo. Non lo so, prova a mandargli un messaggio, non c'è il numero suo. No, è fuori zona, non riceve, porca miseria. Sicuramente, capa. C'è un'antenna abbastanza grande, perché per arrivare così sei forte qua, Sei Santiago 9, sì. No, io sono sul camper. Cazzo, arrivi forte. Sono in una posizione aperta, comunque qua vedo tutto. Esattamente dove sia Platamona, forte ti arrivo io. Io ho smettere un po' così, però sì, sei sul 9, 9 più 10. Capa, già ho credo, sono stazione fissa, sono qua a casa. No, io sono qui, adesso sono, aspetta un attimo, la rotonda. Ma sicuro sì. Sicuro sì, ma la rotonda mi sta arrivando un bel forte. Sì, insomma, qua è tutto aperto, si vede tutto. Capa, sì, lì mi sta arrivando fortissimo. Ma qualche aiutino, che cosa, che antenna, 2001, dai. Queste cose non si dicono. Comunque per essere lì mi sta arrivando forte, sì, lì sei forte qua, L'antenna è una buona antenna. Capa. Poi c'è sempre l'aiutino. Quello è normale. Comunque, complimenti, stai arrivando forte. Io c'ho un apparecchio abbastanza serio. Mi arrivi bene, bene, bene, bene proprio. Sono contento, ti ringrazio. Capa. Già mi faccio sentire anche io lì. Oh, caspita, arrivi benissimo. C'ho l'antenna sul tetto, una ringolemma c'ho. Sono a Sassari, sono, mi dona Corsovico. Ah, non conosco molto le zone, però Sassari sì, sono passato stamane. Scappa. Io sono qua a Sassari, zona Corsovico. Cioè praticamente al centro della città, dai. No, ho capito. Cappa, arriva una fucilata, mi arrivi. Cavolo, per essere da dove mi hai detto, Nitrica. Vabbè, io sono da tanti anni che faccio radio, quindi mi piace molto, anche quando viaggio, avere possibilità di dare segnale. Cappa, ma non sei sardo, sì, sei mezzo sardo. Sì, mezzo e mezzo. Cappa, non sei sassarese? No, di Oristano i miei genitori. No, io sono di Sassari, proprio Sassari, città. Capisco, bene. Cappa, sei sempre in movimento o sei fisso lì? No, adesso sono qui, un attimino ci siamo fermati a fare un giretto, poi partiamo, andiamo a Trentino. Cappa, caspita, comunque va bene. Cioè, sicuramente quell'antenna sta rendendo alla grande, perché arrivare così, perché c'è sceso un altro amico, arrivare così da quella zona, sei forte, per cavolo, sei molto forte. Potrei fare anche di meglio, ma adesso non è che siamo lì a... Lo so, c'è sceso un altro amico mio, c'è sceso, e mi ha, al limite che mi arrivava a 7, una roba del genere, e tu sei 9. Sì, no, beh, qualcosa. Sì, magari con 5 watt. No, già stava pompando. Ma... Certo, no, non è che è, però già... Comunque già va bene, dai. Ma qui è tutta zona aperta, dovrebbe essere facile arrivare. Sì, no, già va benissimo qua. Ok. Zona aperta, il mare è un po' aperto, ma dall'altro lato non è apertissimo, la verità. Vabbè, sì, però non è che ci siano montagne come da noi. Lo so. Cappa. Mi ha fatto piacere sentirti. Io ti devo lasciare e ce la risentiamo, che devo andare a mangiare, come diciamo noi qua, andare a mangiare. Bene, ti auguro buona cena allora. E anche noi tra un po' partiamo, poi vediamo lì un po' a Trentino se riusciamo a prendere magari una pizza stanotte. Ok, mi ha fatto piacere. Cappa, guarda lì, se c'è la rotonda, lì c'è lo Speed Day, cioè, che fa le pizze. Anche se non ti vuoi spostare molto, se no, già cerca un'altra. No, ma noi dobbiamo essere a Trentino stanotte per il discorso camping, capito? Abbiamo prenotato, dobbiamo essere lì entro le 21. Allora va bene, dai. Lui ve lo cercate lì, già c'è qualcosa. Ok, dai, ti saluto allora, tante cose. Ciao, risentiamoci, ciao. Ciao.